Buonasera da Radio Città del Capo, in particolare da Max Macchia per 451 frammenti sonori. Ben ritrovati in questa giornata così tra tempeste e terremoti. Aspettiamo qualche altra scossa. Nel frattempo ne diamo qualcuna noi a livello musicale con Fanta Black, un mondo inventato di sana pianta, per quanto poi radicato in antichissime tradizioni molto lontane dall'Occidente, da parte dei neri americani, della popolazione appunto afroamericana nel corso dei vari decenni, soprattutto insomma quelli del dopoguerra, ci interessano del secondo dopoguerra. E questa sera appunto 451, tra tempeste di suoni, terremoti ritmici e quant'altro, insomma, di fantasioso e fantastico dentro appunto la cultura afroamericana, andrà alla ricerca di questi immaginari così forti che hanno permeato dal jazz di Sarra fino a Sextant ad esempio di Herbie Hancock, o certe insomma anche divagazioni piuttosto così antropologiche di Miles Davis del periodo anni 70 ad esempio, con magari anche una fanta antropologia in questo caso, che potrebbe anche ricordare altre fanta antropologie, tipo quella di Residence di Eskimo, spesso citata da queste parti quando andiamo a trattare fantasticherie legate a culture inventate. In questo caso poi in realtà molte delle cose che metteremo sono saldamente radicate dentro antichi rituali che provengono dall'Africa, quindi una sorta anche di rimando alle radici culturali, musicali degli afroamericani, dei neri appunto statunitensi, che hanno appunto così ricreato un fil rouge attraverso insomma anche tradizioni secolari, reinventandosi dentro un'urbanità anche piuttosto anch'essa piuttosto radicata e anch'essa trasformata poi, se vogliamo, in una sorta di neoprimitivismo oppure di città reinventata, di suoni appunto che comunque vivevano sia tanto di strada che anche di cosmicità e di fantasticherie varie. E se prima appunto abbiamo citato come probabilmente insomma fulcro originario di tutta questa faccenda, o perlomeno quello che più ha ricreato intorno a sé questa sorta di celebrazione cosmica, ovvero Sarra, sicuramente uno dei suoi figli, non tanto jazz ma funk, è stato George Clinton, e sicuramente con Funkadelic, con il P-Funk appunto, riprendendo direttamente dal P-Jazz, Planet Jazz di Sarra, per parlare anche appunto di quell'extra planet che c'è sia nelle musiche di Sarra che nelle musiche di Funkadelic. Sicuramente insomma fa da pendant e quasi da contraltare anche a una visione sì terrestre, ma appunto anche dislocabile poi a livello cosmico, extraterrestre perlomeno. Funkadelic, dal loro primo disco, per iniziare questo percorso appunto Fanta Black, come l'abbiamo voluto chiamare. Nel frattempo saluto il compagno di viaggio Eliseo Scarpa, saluto l'altro compagno di viaggio che è Lorenzo Albano, che è all'ascolto, saluto chi è con me nello studio questa sera e mi fa compagnia in questa sorta di astronave appunto nera e fantastica che andiamo appunto a far partire proprio in questo momento con gli straordinari Funkadelic. If you will suck my soul, I will lick your funky emotions. Hey, baby, hey. Hey, man, I had some thing last night. Do fine. Do it again. think I'll be good to you. Flower. this music. I said it was for the old country folks. I went to New York, got slick, got my hair laid. I was cool. I was cool. But I had no groove. I had no groove. But here it comes. But now, fly on, baby. Cause I get it. Fly on, baby. You got it. E così iniziava la saga dei Funkadelic tra astronavi anche piuttosto bizzarre, se non buffe in alcune loro insomma risoluzioni e soluzioni abbastanza così inventate tra il rocambolesco e anche lo stradaiolo, ma appunto una strada, come dicevo prima, che partiva dal ghetto oppure insomma da situazioni insomma sempre non propriamente agiate, perlomeno in termini di classe economica, per poi prendere appunto strane strade prima stellari, poi anche extrastellari, forse chissà veramente dove diavolo è anche andata a finire in alcuni anni l'astronave Funkadelic di George Clinton e di altri insomma che matti, svitati, incredibilmente geniali. Tipo Bernie Worrell, un grande bassista, si potrebbe veramente citare vari, si era creato una sorta di appunto di orchestra, quella di San Ra in versione appunto funky, con tutto quel baradan fantascientifico che però non veniva visto in chiave high tech spinta. Veniva visto appunto come anche qualcosa di assolutamente appropriabile dal basso, quindi una situazione anche veramente di autocostruzione, quasi di viaggi stellari, come dicevo appunto prima, anche interstellari. E da Mommy What's Funkadelic, il punto di domanda che appunto apriva l'epopea stellare cosmicheggiante di appunto Funkadelic, a quello che invece è un personaggio che troveremo anche nella seconda parte, Ramzali. In questo caso lo andiamo a prendere proprio dai primi anni Ottanta, un po' memore anche della lezione di Clinton, che comunque ancora all'epoca stampava cose piuttosto egregie. Ramzali porta insomma lo spazio, o anzi come lo chiama lui, il gothic futurism, dentro il verbo elettrofunk, lo trasforma in una sorta di anch'esso un strano aggeggio spaziale che ci porta veramente lontano, però sempre appunto con questo senso poi anche di alterità e quindi anche di dialettica rispetto alla Terra, questo altro che dentro le visioni insomma di Ramz Lee è presente, in questo caso versus K-Rob, storico pezzo dell'elettro più fantasiosa, anche se vogliamo più più jazzata e più vagamente avant, se questo insomma può significare qualcosa stasera, soprattutto appunto stasera. Ramz Lee appunto versus K-Rob. Get funky in the place. Get funky in the place. This pathetic dope addicts have to be abused. It's the same, what a thing to be a prostitute. Life is given to us just to do the right thing. Instead of that, we came a whole ball with big dope fiend. Make you feel real bad every time I see another bum over brother sleeping on the street. In the corner, in the morning, every night and day. It's a pity, so many people try to act gay. Everybody's turning crazy, so you better believe. To do the right things, all soon you'll see. Life ain't no more joke, it's a serious thing. When you're dealing with the answers that you can't explain, New York City is a place of mysteries. Drug addicts, dope dealers taking over the street. That mayor's always saying, why the hell do we pay for what? Boy, they break the laws and get a couple of days. No sense trying to help, it's really no use. Think the world's messing up, let me tell you the truth. All rocks trying to pop with no respect. Niggas waiting at the station for the big paycheck. Homeboys going vacant on Thursday night. Girls waiting in the house for Mr. Right. Kids going to school just to be a fool. Never wanna learn to work just to go to a school. It's the funky beat, and it's the funky beat, and it's the funk, and it's the funky beat. Yeah. This is the mellow they call the rail bell. The rockster with the rhythm that a shock can spell. When the shake up kick, the wakes you up in the morning. Gotta rake with the rhythm like a number one groaning. MC quick, just to make your peanut butter. Shock with the rhythm, I'm a number one undercover. Bring it up, just shake it up, rodeo. Bring it up, just shake it up, rodeo. I'm the melody down with the funky sound that can make you break with my diamond studded crown. Just so making you dip like a little bit of dive, like a rat, just so making you hide. Rock on to the break of dawn. Just freaking, yeah, baby. Just freaking, yeah, baby. Like a little jelly bean, I'm a sweet like a candy cane. I make you get down. This is number one stain on the train. Just moving like a stage on. Just bring it up, yeah, yeah. Stage on, like a roller coaster ride. That can make you bump. Just grooving with the rhythm as you shake your rump. You got the a rock, rock, you don't stop. The baby, yo, you got it now. Rock it, you don't stop. Just hip hop today, yeah, Doobie Doo. Yeah, Scooby Doo, what you wanna do, crew? Just freak out, yeah, yeah, baby. Just freak up, yeah, yeah, baby. Drink it up, dear. I know, my dear. I can rock you out this atmosphere like a gangster, prankster, number one banks. Got the much cash to make you thank you. Rock on until the break of dawn, break of dawn. Keep it on, keep it on. I know ZZ that can rock quick. I like the eye kind of class, add your rhythm to the stick. Just a rock on like a finger lick. Finger poppin', hop poppin', don't stop. Bunny rock, you don't stop. That long fingernail at the end of my tip. Oh, my pinky cocaine, make it slip on my lip. Just make you freak when a panty wedding with slip. Rock a little pat to the dabble, make it my hip. Shake, shake, rock, body rock, a hip or the hop. Like a RPM's my nose don't care about the rhythm that breaks. Because the music is down, that when your body wants to shake. Got a hip hop a little baby dog, get down. Let the rock just shock your tone. Just break it up, shake it up, yeah, baby. Cause the groove just rocks like a little shady. Just shade it up, shade it up with the glasses. Or make it on with the serious pattern. Get the melody quick, yep, the melody sound. That'll rock it quick with the number one crowd. I can get up on the groove that make you shake down. Cause the beat from the depths of hell make you get down. Rock on to the beat. Freak it on with that kid, Janique. Just check it out, check, check it out. I said I broke into a Duncanville, yeah. And then I shot across top of how I went to tell, yeah, break it up, Cypress Hill. I shake it up with the writings on the wall. So don't give a fuck, just damn it up. I rock on, you don't stop, just damn it up. I rock on, you don't stop. The beat boys, rock on, you don't stop. Freak it on, break down, don't stop. From the depths of hell, rock well, Romel. Rock on to the beat, beat. Yeah, candy. the game. Get your neck rockin' so sweet, cause I'm a jam up hip hop. I'm making the tip top. Shake on the breakdown, the needle on the eye. Groovin' with the rhythm of a break of the sky. Rock deeper at the horse, drinking all we brew. Never wanna go to school with that's a fact. To all of a sudden, you got left back. Now you're feeling real low and mighty hurt. And your friends are snapping on you like you're a jerk. Now things are hard and you're feeling depressed. And your mind can't function cause you can't pass the test. You're saying to yourself, what can I do? I can't go home, I might as well quit school. Jobs are hard to find, everybody knows. And you can't do crime cause you're on parole. No education is a big disgrace. And so you might as well work at the sanitation. Can you get my drift? I know the man that gets with the deal that rocks like the rims, the ass real real. He can get real ill when you're on the chill. I like the quarter drop and dime that can make it see the thrill. Master killer called the evil gorilla. Yes, the best in the nation, yeah, number one thriller. I'm the best cut, I'm rocking with the duck. Making with the conceal, a shock shock. You don't quit, quit, you don't quit. Say what? Rockin', don't stop the bebop, the rockin'. You don't quit, quit, turn it up, y'all. With the serious shit, you're shaking on. Rockin' on and on, break it on. Keep it on, break it on. Get on, get on, get on, get up, get up. I like a rodeo, rodeo, big duck. I like a DD to hoppin' with the BB King on the mic. I like a mic controller, seeking on the freak. I like a little deep, deep. You rockin' hard with kids, Judy. I like this show, Patty Duke. Don't stop, Patty Duke. Play down, not hitting the top. I break a rock, grandmaster, hip and showing the shocking out. Shake it out, you don't stop. Get funky in the place. Get funky in the place. What? With your friends, you never took the effort to see what's happening. Crime, crime, crime, can't get it off my mind. Cause it's the thing we have to face all the damn time. People always say, why do they break the law? So I'm gonna tell you right now, it's cause of all of y'all. Fast and go like your bowl, I'm gonna let it be told. It doesn't matter to a D, if you're young or old. Just money they want and they need it bad. And to take another person's life, it makes them feel glad. So rock to the funky beat. That you heard yet? Rockin' better on the radio set. And if you did, and if you did, please tell me now. All the others, rockin' better in town. Had to say, don't front on me. And if you do, it's only jealousy. All the ladies, T-Money. All the homeboys, T-Money. Money making, rock on it. Money making, rock on it. Boogie down in, rock on it. Romel C, rock on it. Say what? Now when I get down to the funky check rock, you know, a good rhythm just makes you bet, bet your cash. You're like a three-card money, money. All I wanna do is just rock the beat, money, money. And with the jam, now with the dive, like I'm picking your pocket. Put the dick on the slide, slide. I put the cap in 38, shooting real straight. Cause I'm down like a double dip. I re-manipulating on that beat. Grandmaster, make a move. Make it with the rhythm when I shoot to the boo-boo. Rockin' on like a tutti frutti boo boo. You know, when I went to school, I went to the depths of hell, to the darkest, deepest corner. Rockin' all the women, shocking with the order. All the upper double depth, a magical man. I like a dip star, prank star, deafin' with the damn damn. Def, def, def, jam, y'all. I like a B-boy making with the freak freak. A B-boy making with the freak freak. I shoot it up, yeah, shoot it up, y'all, yeah. Shoot it up, yeah, shoot it up, y'all, yeah. I'll break it down, yeah, baby. Break it down, yeah, baby. Slipping the dope, yeah, to taking the yoke. I like a little old homeboy shooting with the choke, yeah. Making with the sneaker, rocking like a easer. MC quick, just the number one pleaser. Shooting like an uptown tip on the check. When I step out my ride, I can hit the deck. Rock on, to the break of dawn. Rock on, till the break of dawn. 728. Break it down, yeah, baby. Break it down, yeah, baby. Straordinario Ramz Lee, già negli anni Ottanta, insomma, visionava e anche così inventava un linguaggio della strada che completamente rimasticando anche forme d'avanguardia, insomma, europee come il Dada e il futurismo, reinventava appunto una città magari fuori appunto dall'orbita terrestre, o forse anche dentro questa, però insomma con un'attitudine sicuramente extra. Reinventava appunto un suono, una cultura che prevedeva tanto di surrealismo anche rispetto a queste maschere assurde, robotiche, però anche piuttosto grottesche, quasi a ricordare dei samurai dello spazio, oppure forme appunto, come le chiama lui, di gothic futurismo, tra l'altro collaboratore anche intenso del grande Basquiat, altro genio che dalla strada si stava proiettando verso il cosmo, anche lì tutta una reinvenzione appunto fanta black, appunto del vicolo, del quartiere, della città, proprio anche della stessa vita appunto che si compiva lì appunto proprio nella verità poi delle streets newyorkesi, e non solo, con Ramz Lee e Basquiat sicuramente sì. Tra l'altro poi Basquiat diventerà anche un collaboratore di un altro visionario del jazz, dell'elettro, di certo anche rock, perché no, e anche forse di certa sperimentazione, anzi senza il forse. Stiamo parlando di Bill Oswell, qua lo sentiamo con Deadline, un'Africa che va a trovare lo spazio, e poi di seguito anche Material, che invece reinventano il jazz trasportandolo verso insomma una sorta di pista da ballo marziana, e appunto dall'Africa di Deadline, la reinvenzione culturale africana musicale, a quello che invece è una dance del futuro già scritta, insomma, come il pezzo di Ramz Lee, intorno agli inizi degli anni Ottanta. Deadline. Uno dei pezzi dance più visionari di sempre, Material, Secret Life, tra l'altro uno di quei pezzi insomma che veniva suonato nelle prime discoteche proto house, le insomma situazioni che conoscevano bene Larry Levan e personaggi insomma come Walter Gibbons, insomma visionari della console, che poi per tanti versi hanno anche attraversato la strada di Bill Oswell, che come Arthur Russell insomma ha sempre avuto come dire due cuori probabilmente, uno per l'avanguardia e un altro per suoni più stradali, e magari appunto nelle insomma situazioni sicuramente più belle che rimangono assolutamente da Peter Mirari si sono anche uniti questi cuori da creare appunto un unicum anche incredibile a livello sonoro. Material, quelli di Memory Service sicuramente ricordano questo cuore, questo unicum per senso di sperimentazione e anche appunto per comunque arditezza pop. Abbiamo preso tra l'altro questo lavoro da uno dei primi singoli, quindi tra la fine degli anni 70, primi anni 80, come fare suonare un Giorgio Moroder dentro un ghetto nero, insomma come farlo suonare dentro il Bronx, questa è insomma una chiave che potrebbe essere di lettura per quanto riguarda una dance mutante come quella di Material, ma anche insomma un'Africa cosmica come quella invece del Deadline ascoltata, che tra l'altro prevedeva anche l'ospite del famoso uomo di Sol Makossa, Manu Dibango, chiaramente, che appunto veniva prelevato dalle ritmicità funky, ritmicamente luppose potremmo dire, appunto di Sol Makossa, è fatto entrare dentro questo strano mondo newyorkese tra appunto primitivismi inurbani e urbanizzati invece per altri aspetti, e strane forme appunto di ripescamento quasi ancestrale di cultura appunto africana e afroamericana, quindi con tutti i rimasticamenti, tutte anche le linee di sopravvivenza che ci sono state nel corso dei secoli per mantenere una cultura che non poteva essere insomma più tale, ovviamente quella appunto dell'Africa, degli schiavi, trasformatasi in veramente mille fantastici, non sempre fantastici, ma in questo caso, nel caso di questa sera di 451, sicuramente tali. Finiamo con la prima parte in zona orchestra, poi diciamo due parole su questo progetto. Se abbiamo iniziato con gli anni 70 di Funkadelic, la linea continua con Ramz Lee, Deadline e Material per gli anni 80, andiamo dentro gli anni 90, come appunto definire quella che comunque è una continuità che probabilmente soltanto la cultura afroamericana ha, così forte perlomeno tale da essere insomma quasi senza soluzione di continuità, oppure se insomma la sentite questo distacco tra pezzi e tra un pezzo e l'altro, magari scrivetelo, magari anche attraverso il blog, così lo ricordo, 451 frammentisonori.noblogs.org, fine prima parte di 451, e torniamo dopo appunto.